pensato tanto a lei. Dopo il veratro vicino, tanto rimpianto le mie scelte. Quando tutto andava bene, ho creduto far bene che ti dimenticavo e che tutto andrebbe meglio. Ma mi sono sbagliato, ho vissuto lontano da lei. Amare certo con la pena, e i rimorsi che hanno la testa, e sono spirito che mi avvisa. Ho creduto far bene che si dimenticando, tutto andrebbe meglio. Ma mi sono sbagliato, ero un pazzo, non credo. Con il suo ricordo nel mio cuore, e si vive con tante e tante speranze. Perché ho vissuto a piano e con tutta la grinta. Ero essere fare le buone scelte. E ho una storia di un amore sprecato. Ho pensato tanto a lei, tutto ponderato in vicino, tutto rimpianto le mie scelte. Quando tutto andava bene, ho creduto far bene che ti dimenticavo e che tutto andrebbe meglio. Mi sono sbagliato, ero un pazzo, non credo. Il suo ricordo nel mio cuore, dimenticabile, che si vive con tante e tante speranze. Perché ho vissuto a piano e con tutta la grinta. Devo essere fare le buone scelte. Sprecato. Tante e tante speranze. E non si deve fare le buone scelte. È una tanta bella storia, una storia di un amore sprecato, una storia del cuore gelato.